Letture di Radio 24. Per le donne è dura in tutto il mondo, scrive la giornalista egiziano-americana Mona El Tawi. Ma nominatemi un paese arabo a caso e vi reciterò una litania di abusi. Non ci odiano perché siamo libere, scrive la giornalista, che durante le rivolte di Piazza Tahrir è stata arrestata dalla polizia del Cairo e poi molestata sessualmente in caserma. Semplicemente, non siamo libere proprio perché ci odiano. Sì, loro ci odiano, diciamolo. Qualcuno potrebbe chiedersi perché sollevo la questione ora, nel momento in cui la regione si è ribellata, spinta non dal consueto odio verso America e Israele, ma da una diffusa richiesta di libertà. D'altronde, prima di chiedere un trattamento speciale per le donne, bisogna garantire a tutti i diritti fondamentali, no? C'è un intero sistema politico ed economico, quello che tratta come animali metà degli esseri umani, che deve essere abbattuto, al pari delle altre più scontate tirannie che bloccano il futuro della regione. Finché la rabbia contro gli oppressori che vivono nei palazzi presidenziali non si sposterà contro gli oppressori che popolano le nostre strade e le nostre case, la nostra rivoluzione non sarà nemmeno cominciata. E sì, certo, per le donne è dura in tutto il mondo. Ma nominatemi un paese arabo a caso e vi reciterò una litania di abusi alimentati da una miscela tossica di cultura e religione di cui pochi sembrano desiderosi o capaci di liberarsi per paura di risultare blasfemi od offensivi. Ma se oltre il 90% delle donne egiziane che si sono sposate almeno una volta nella vita ha subito la mutilazione dei genitali in nome del decoro, allora ben venga la blasfemia. Se le donne egiziane sono sottoposte a umilianti test di verginità solo per aver fatto sentire la propria voce, non è il momento di tacere. Se un articolo del codice penale egiziano dice che una donna che è stata percossa dal marito, con buone intenzioni, non ha diritto ad alcun indennizzo, chi se ne frega di essere politicamente corretti? E quali sarebbero poi queste buone intenzioni? Secondo la legge, può essere definita tale qualsiasi percossa che non sia violenta o diretta al volto. Quando si parla della condizione delle donne in Medio Oriente, le cose stanno peggio di quanto non si pensi. Molto, molto peggio. Anche dopo queste rivoluzioni va più o meno tutto bene, finché le donne rimangono velate e chiuse in casa, private perfino del diritto elementare di spostarsi al volante della propria auto, costrette a chiedere agli uomini il permesso di viaggiare e impossibilitate a sposarsi o divorziare, senza la benedizione di un guardiano maschio. Nei primi 100 posti della classifica del rapporto sulla disparità di genere del Forum Economico Mondiale non compare un solo paese arabo. Anzi, tutta la regione si attesta compatta in fondo alla classifica. Poveri o ricchi, odiamo tutti le nostre donne. Due stati confinanti come Arabia Saudita e Yemen sono lontani anni luce quanto a prodotto interno lordo, ma in questa classifica sono distanti 4 posizioni, con il Regno Saudita al 131esimo posto e il suo vicino del sud al 135esimo posto su 135. È facile capire perché lo Yemen occupa l'ultima posizione. Il 55% delle donne non sa leggere e scrivere, il 79% non lavora e su 301 parlamentari c'è solo una donna. Le notizie raccapriccianti su dodicenni che muoiono di parto non fermano la marea di matrimoni minorili. Che cosa dobbiamo fare? Per prima cosa dobbiamo smetterla di far finta di niente e chiamare l'odio con il suo vero nome. Respingere il relativismo culturale con la consapevolezza che anche in un paese dove è in corso una rivoluzione o una sollevazione, le donne rimarranno la merce di scambio più sacrificabile. Lo sai perché ci hanno sottoposte al test di verginità? Mi ha chiesto Samira Ibrahim l'8 marzo, dopo che avevamo marciato insieme per 8 ore al Cairo per celebrare la festa della donna. Vogliono imporci il silenzio, vogliono rispedire le donne a casa, ma noi da qui non ci muoviamo. Siamo qualcosa di più di un velo e di un imene. Date ascolto a quelle di noi che lottano, date risonanza alle voci della regione, reagite all'odio. C'è stato un tempo in Egitto e in Tunisia in cui essere islamisti voleva dire correre rischi gravissimi politicamente. Oggi probabilmente i rischi maggiori li corri se sei donna, come è sempre stato. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Mona El Tawi, Non siamo libere perché ci odiano, dal Newsweek, traduzione italiana di Fabio Galimberti, pubblicata sul numero di giugno-luglio della rivista Il. ricerca rivela che i vegani e tutti quelli che sono ossessionati dal cibo buono si ritengono moralmente superiori e si autoassolvono da ogni egoismo. Per contro, le statistiche dimostrano che i pregiudizi nei confronti dei vegani sono in continuo aumento. Sarà capitato anche a voi di trovarvi alla cassa di un alimentare biologico, aver dimenticato di portare da casa la sporta biodegradabile e sentirvi circondati da sguardi gelidi mentre chiedete a bassa voce un sacchetto, o di essere sedute al ristorante di fianco a una coppia che domanda al cameriere dettagliate informazioni sulla vita vissuta dal pollo che vorrebbero ordinare e di vedere che si rilassano solo quando hanno saputo che il pollo, che si chiamava Alex, era stato allevato con latte di capra, soia e asparagi selvatici. Loro rilassati, perché voi invece siete raggiunti dal dubbio se ridere o sentirvi piuttosto insensibili e anche un po' ignoranti. Ma se di fronte alle virtù esibite di vegani, fruttariani, crudisti, fedeli amanti del bio e dell'organico, di patiti di menù ricchi di rintracciabilità, pur riconoscendo necessità ambientali e valore etico delle loro scelte, oltre alle differenze sostanziali tra le diverse tribù della nuova alimentazione, vi siete sentiti un po' snobbati, guardati dall'alto e con un misto di sacralità e supponenza, una ragione, a quanto pare, c'è. Non si tratta del primo studio a sostenere che dietro l'alone del consumatore verde si nasconda un cuore poco empatico, ma la recente ricerca del giovane psicologo Kendall Eskine della Loyola University di New Orleans, nata per cercare le conseguenze morali derivanti dall'esposizione al cibo organico, ha suscitato scalpore. Il perché, come la ricerca, è semplice. Divisi i soggetti dell'esperimento in tre gruppi, Eskine ha mostrato e fatto valutare al primo solo cibi organici e di poco sapore. Al secondo gruppo, comfort food, cioè piacevoli schifezze che fanno male al fisico ma bene all'umore. E al terzo gruppo ha assegnato cibi neutrali. Poi ha chiesto a ciascuno dei gruppi due cose: esprimere, dopo aver ascoltato brevi storie emblematiche, il proprio giudizio su comportamenti trasgressivi. In seguito, di offrirsi volontari per un lavoro poco gratificante e non pagato. Risultato: gli organici si sono mostrati più spietati nei giudizi e indisponibili ad aiutare l'altro. C'è qualcosa nella scelta organica che fa sentire migliori e comportare peggio, deduce Eskine, raggiunto nel frattempo da numerose mail di protesta e accuse di essere pagato dall'industria alimentare americana. Scegliendo organico è come se a quel punto avessero già compiuto il loro dovere e potessero quindi permettersi comportamenti poco etici e asociali. La scoperta di Eskine è un contributo sia per migliorare chi si sente già migliore, sia per spingere l'industria bio a evitare nella sua comunicazione troppi riferimenti alla purezza, all'onestà e sincerità dei prodotti, come fossero valori esclusivi e trasmissibili. Il termine da tenere a mente è moral licensing, licenza morale. In psicologia descrive la condizione in cui una persona si ritiene, sulla base delle scelte già compiute, nel giusto e si autorizza di conseguenza a comportamenti opposti. Chi mangia cibi senza pesticidi o per i quali non è stato fatto del male ad alcun essere vivente si sente superiore, come se insieme al cibo più onesto avesse comprato anche bonus di moralità, da spendere poi in altri campi. Mi hanno accusato di tutto dopo questa ricerca, conclude Eskine, per molti anni vegetariano. Ma capisco l'animosità. Si tratta di un movimento nuovo e che si deve affermare. Mi accontenterei se alla fine fosse il marketing a cambiare e si smettesse di proclamare quanto sei straordinario se scegli alimenti bio. Da parte loro, vegetariani e vegani sono allarmati per la diffusione in Italia della vegefobia, definita volontà di farci vergognare della nostra preoccupazione per gli animali, o paura dei vegetariani, come scrivono loro sul sito, dove hanno pubblicato i risultati di una ricerca su come vegetariani e vegani sono trattati dalla stampa italiana. Su quasi 400 articoli analizzati, il 74,3% contiene giudizi negativi. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Michele Neri, Chi ha paura del vegano cattivo, da D di Repubblica del 23 giugno. Anche gli uomini possono essere vittime di shopping compulsivo, ma esistono delle terapie per uscire dalla dipendenza. Hanno fra i 30 e i 38 anni, sono ossessionati dall'apparire, hanno reddito medio-basso ma hanno acquisito una buona capacità di spesa. Sono spesso donne, però gli uomini rappresentano un terzo del totale e crescono più rapidamente del gentil sesso. Sono gli italiani malati di shopping compulsivo, il 6% della popolazione. È un disturbo comportamentale fra i più dannosi, spiega Cesare Guerreschi, fondatore della SIIPAC di Bolzano, la società di intervento sulle patologie compulsive del terzo millennio, internet, gioco d'azzardo, smartphone. Nei casi più gravi la terapia è a tre stadi: alcuni giorni di seduta collettiva, una fase di detox con sequestro della carta di credito, infine un graduale riavvicinamento alle vetrine, usando contanti e liste della spesa. Il tutto con una persona cara al fianco e monitorati da uno specialista. La cura può durare fino a 3 anni. I disintossicati sono tra l'80 e il 90%, conclude Guerreschi. I prodotti più pericolosi? Vestiti, accessori e telefonini. Ho conosciuto un ragazzo con 500 paia di jeans identici e un altro che cambiava cellulare ogni settimana. Ma ciò che dà assuefazione è l'azione dell'acquisto in sé. Spesso ciò che si compra non viene usato perché genera sensi di colpa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gianluca Ferraris, Shopping senza freni, il malato è lui, da Panorama del 20 giugno.